Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Così, respiri. Respiri. Così, bravissimo. Spinga, ancora. Forza. Ehi, ehi, ehi, ehi. Ehi, no, che spingere. Non va diretta. Non spingere, sto cadendo. Aia, che succede? No, rimettimi dentro. Il pupo è nato, ma noi facciamo un passo indietro lungo 9 mesi. Parliamo di gravidanza, le parole, i pensieri, i gesti e le attenzioni dei 9 mesi che cambiano la vita. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Oggi vi invito a pensare alla vostra gravidanza, vicina o lontana che sia, o a quella della vostra compagna, di vostra sorella e, perché no, a quella della vostra mamma. Perché è un'esperienza che non si scorda mai, dato che sa essere straordinariamente unica. Lo sanno bene le mamme che l'hanno affrontata anche più volte, e alle future mamme che ci stanno provando, magari in mezzo anche a qualche difficoltà, qualche problema, vorrei proprio di cuore che questa puntata suonasse come una sorta di buon augurio. Se quando succederà potete tornare con il pensiero, ma anche nel nostro archivio digitale, a ripescare questa puntata per fare tesoro dei mille e molti consigli che vi daremo oggi. Allora, di che si tratta, Amy? Qual è la notizia? Non volete mangiare prima? Coraggio, Amy, diccelo. Ah, io lo so che cos'è, ci scommetto. Avete comprato casa? Credevo che stavate per avere un bambino. Ma che dici? Anche noi? Anch'io, è proprio quello che avevo pensato. È quello che speravamo. Beh... Diglielo. È proprio così, sto per avere un bambino. Siamo incinti. Preoccupata. Sta tutto bene. Non sto piangendo perché sono triste, davvero. Piango perché... No, cosa... Mi serve un fazzoletto. Annie, è particolarmente emotiva in questi giorni. Un periodo delicato e speciale, ma non solo per i genitori che si preparano al lieto evento, ma è il periodo in cui il bambino, quel bambino, nella pancia della sua mamma cresce e si prepara ad affrontare la vita. Ormai tanti studi dimostrano che nei 9 mesi della vita intrauterina il piccolo interagisce profondamente con l'ambiente esterno. Respira, sente, gusta, assapora le emozioni, i suoni, le carezze. Insomma, lui cresce dentro di noi e noi con lui. Guardavo mia mamma con tenerezza. Pensavo che la mia vita era iniziata dentro di lei. Per 9 mesi le nostre vite sono legate. Ogni cellula del mio corpicino in formazione attingeva nutrimento da lei. Il suo cibo era il mio e così si formava il mio gusto. La memoria delle mie cellule cresceva al ritmo della sua vita. La memoria di una cellula è indelebile. Ogni esperienza la vivevo attraverso le sue esperienze, aiutando la mia memoria a svilupparsi. Le emozioni che mi trasmetteva contribuivano a formare la mia personalità. Le sue paure, le sue angosce e le sue pene erano le mie. Le sue gioie, i suoi entusiasmi e i suoi piaceri pure. Poiché nella sua pancia, quando lei rideva, io ero felice, e quando lei piangeva, io ero triste. Guardavo mia mamma e pensavo che qualunque cosa fosse mai accaduta, lei sarebbe stata sempre mia madre. Abbiamo sentito un breve estratto tratto dall'edizione italiana del libro di Evelyn Dissot, Sarai per sempre mia madre. Allora oggi, cari amici, io vi propongo, care amiche soprattutto, di ripensare, di rivivere la vostra gravidanza attraverso i 5 sensi. Penso proprio che questo possa aiutarci a riattivare i ricordi e allo stesso tempo a raccontarci e a cogliere anche le emozioni delle donne che la stanno vivendo, insomma trasformarci un po' da quelle zie dispensatrici di consigli e di coccole che a noi piace fare, che secondo me facciamo bene. Intanto io accolgo con grande piacere una giovane mamma che in questi giorni ha qualcosa di sé in gran parte delle sale cinematografiche. È Pulsatilla, autrice insieme a Fausto Brizzi di un libro di grande successo, Maschi contro femmine, edito da Mondadori, in cui i due autori cercano di trovare una risposta semiseria a quesiti fondamentali come: perché le femmine fanno pipì in coppia? Perché i maschi mandano SMS telegrafici? Un maschio può diventare estetista? Pulsatilla e Brizzi hanno scritto insieme anche una commedia, dallo stesso titolo, in uscita in questi giorni nelle sale, che ha già scalato le classifiche e incassato milioni al botteghino. Ma oltre a partorire un libro, un film, Pulsatilla in questi giorni ha dato alla luce anche una bambina. Ciao Pulsatilla! Ciao, buongiorno. Senti Pulsatilla, devo dire, a proposito di nascita, che proprio il giorno prima dell'uscita nelle sale di Maschi contro Femmine noi eravamo in linea con Fausto Brizzi, quindi siamo stati un po' testimoni, se vuoi, e come sempre chi passa da essere benessere va alla grande, il botteghino parla, ma anche Fausto ha parlato e ha parlato proprio di te. Ciao a tutti, grazie a voi di avermi invitato. Pulsatilla è assente giustificata perché ha partorito da 2 giorni, e... è caratteristica delle femmine. Maschio o femmina? Ha partorito una femmina, Clara. E vai! Ovviamente. Ovviamente. Senti. Molto femmina, Valeria. Come dice Pulsatilla, come diciamo anche nel libro che abbiamo scritto insieme, io sono una specie di prototipo di maschio per lei, nel senso però negativo del termine. Perché? Cioè, che cosa ti dice? Uno di difetti che si trovano in tutti gli uomini, e che nel mio caso c'è un unplan, questo dice Pulsatilla, cioè gli uomini sono vagamente misogini, gli uomini sono vagamente bugiardi, un pochino infantili, e io ce l'ho tutte queste cose. E Pulsatilla, perché questi maschi mandano SMS telegrafici? Ti devo svelare quindi il contenuto del libro. Non proprio il contenuto, ma un accenno, una curiosità. Poi abbiamo sentito anche Fausto. Insomma. Beh, diciamo che dovendo ridurre tutto il libro a un solo concetto, le femmine sono complesse, i maschi sono estremamente elementari. Infatti. Per cui diciamo la femmina è un amante dell'arzigogolo ed è sostanzialmente incapace di arrivare dritta al punto, quindi quando scrive al telefonino sembra che stia parlando con il suo biografo, grosso modo, cioè deve cominciare dall'inizio, come è andata oggi in ufficio. Dunque, Adamo ed Eva in principio, eccetera, eccetera, mentre l'uomo ha una capacità di sintesi, sì, no, ok, caldo, freddo, erezione, e boom. Meno male che è nata Clara, infatti quando lui mi ha detto è nata una femmina mi è scappato proprio un wow. Sì, grazie. Senti, tu sei una donna vulcanica e la maternità, lo dicono anche alcune ricerche, rende ancora più creativi, quindi io non oso immaginare che cosa starei facendo ora. Allattando per lo più, Clara non ha neanche 2 settimane di vita, diciamo ovviamente la mamma e il papà sono a disposizione del neonato, quindi tutte le attività sono nostre, sono intercapedinali tra una richiesta e l'altra di Clara, ed è giustissimo che sia così. Assolutamente. Però vabbè, io grazie a Dio sono molto privilegiata e facilitata dal fatto che il mio lavoro si può svolgere anche in casa, quindi appunto la notte in bianco poi può essere bilanciata da una mattinata di riposo, oppure appunto mentre Clara si fa un sonnellino io posso scrivere, telefonare, insomma, nei momenti che desidero. Questo ovviamente sarebbe bello che lo potessero fare tutte le mamme, ma non è così. Però non potrei lavorare con Fausto Brizzi, ecco. Non potrei. Questo non so se è una buona o una cattiva notizia. Prendiamo una notizia a metà, né buona né cattiva. Sì. Una riflessione a voce alta. Allora, Pulsatilla, sei pronta per il nostro faccia a faccia? Noi ci facciamo accompagnare dalla colonna sonora di Maschi contro Femmine. Yes. Il profumo che associ ai 9 mesi. Ricordo per lo più gli odori che mi hanno dato la nausea, perché io tra l'altro la nausea ce l'ho avuta per tutti e 9 mesi. Innanzitutto in pole position il caffè, un certo bagno schiuma e la sigaretta di mio marito. Il profumo che associ ai 9 mesi. A rotazione mi dava fastidio qualsiasi cosa a seconda dei giorni. Le prime 5 settimane di gravidanza sono stata in Australia per lavoro e in Australia mi hanno dato il tormento costante col coriandolo fresco, che al momento detesto. La forma della tua pancia. Piccola e tonda come la bimba. Avevi voglia di... Sempre, sempre, sempre di stracchino, tutte le ore. La musica che ti ha accompagnato. I Penguin Caffè Orchestra durante il travaglio, perché ho avuto la fortuna di partorire in casa. Durante l'allattamento, Hope Sandoval, che Clara ama moltissimo. il colore del primo vestitino. Azzurro, tutti sentivamo che sarebbe stato un maschio e anch'io, quando sono nata ero sommersa dai pigiami azzurri perché l'ecografia diceva che ero un maschio, per cui una linea che si tramanda. Allora, Pulsatilla, prima di salutarci, io vorrei che tu ti rivolgessi ad una nostra mamma in attesa, con una sorta di cara mamma, ti dico... Cara mamma, ti ricordo il mantra dei neogenitori, è questo qui. Nei momenti difficili, quando il bimbo piange, si dispera, si tratta i capelli e tu stai perdendo il senno, guardati allo specchio e ripeti con fiducia, tutto cambia, anche questa passerà. Forza! Grazie Pulsatilla per essere stata con noi, torna presto a trovarci, sbaciucchiami Clara. Grazie, lo farò, buona giornata. Un abbraccio. A voi. E noi torniamo in studio, qui accanto a me c'è Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene. Alessandro, ciao. Buongiorno Nicoletta. Ma al telefono è tornata a trovarci la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, direttore del centro di ginecologia medica all'ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Professoressa, buongiorno, che bello. Buongiorno, buongiorno a tutti, davvero, anche per me è un gran piacere essere insieme stamattina. Alessandro, anche Starbene si occupa di gravidanza e di mamme, in particolare di quelle che i ginecologi chiamano, non mi piace, ma le chiamano così, primipere attempate. Ma sono davvero così tante? Starbene ci dà i numeri. Secondo fonti Istat, negli ultimi 10 anni i bambini nati da donne tra i 35 e i 39 anni sono aumentati del 36%. È un vero e proprio boom, rappresentano le mamme tra i 40 e i 44 anni, che hanno registrato un più 70%. Professoressa Graziottin, le donne partoriscono sempre più tardi e le ragioni sono tante, diverse. Ma lei come ginecologa, come legge, come interpreta questo fenomeno e che consigli si sente di dare? Innanzitutto l'Italia, pensi, è il paese europeo che ha il numero più alto di donne che diventano mamme dopo i 40 anni, quindi un dato che ci fa pensare. In Italia tendiamo a ritardare per una serie di ragioni. La prima, diciamolo, non c'è un aiuto alle mamme, a come c'è per esempio in Olanda, in cui una donna può studiare, fare carriera e avere 3 bambini tra i 20 e i 25 anni, che è l'età dell'oro. Quindi purtroppo noi paghiamo questo ritardo di aiuto e di sguardo attento al futuro, non solo della mamma ma anche dei bambini. Abbiamo poi delle età diverse per diventare mamme. Quando noi pensiamo alla biologia, i 18-20 anni sarebbe la perfezione. Quando pensiamo alla maturazione psichica, di quello che chiamiamo il grembo psichico, cioè la capacità di una donna di diventare mamma, già oggi, considerando che abbiamo una scolarità molto prolungata, arriviamo intorno ai 25-30 anni. Poi abbiamo la maturità di lui, i maschi diventano pronti per la paternità sempre più tardi e poi abbiamo una età ideale della coppia anche dal punto di vista del progetto di famiglia e economico. Questo fa sì che in Italia si posticipi sempre più l'età della prima gravidanza, cosa che può essere interessante dal punto di vista della donna che dice: beh, prima ho realizzato me stessa, ho studiato, ho trovato un lavoro, ho fatto una coppia stabile, capace di futuro, abbiamo una certa serenità economica, adesso avremo il bambino. Il fatto è che il corpo, la biologia, non segue questa rivoluzione della programmazione, potremmo dire, culturale e psicologica dei tempi della maternità. Basti pensare che a 30 anni la donna ha già perso l'88% degli ovociti, ossia delle cellule riproduttive femminili, e a 40 il 97%. Questo ci spiega perché poi è sempre più difficile concepire spontaneamente già dei 38 in più, perché abbiamo il 40% di aborti spontanei intorno ai 40 anni e un 8% di malformazioni a termine contro la media del 3-4% a 20 anni. Quindi sono dati che ci fanno dire: donne, attenzione, lo dico col da ginecologa col cuore in mano. Benissimo naturalmente la realizzazione personale o altro, ma non posticipate all'infinito pensando quando voglio posso, perché quando voglio potrei non riuscire più ad avere un bambino. Intanto vi ricordo il nostro numero verde, a proposito di numeri che fanno riflettere, questo è un numero che avete a disposizione per intervenire, 800 24 00 24, i messaggi 349 238 6666, state diventando sempre più numerosi su Facebook, per cui scriveteci, seguiteci, per noi è veramente un modo di sentirvi più vicini e di prendere da voi spunti, riflessioni. Alessandro, intanto ti vedevo molto pensieroso ad ascoltare la professoressa Graziottin, che ci inquadrava proprio una situazione. Alessandra Graziottina, sempre questo grande dono di farci queste fotografie perfette di fenomeni molto complessi. E in effetti noi abbiamo fatto questo servizio su, sono d'accordo con te, primi para attempata, non so chi l'abbia inventato, però un termine tecnico terribile. Ecco, possiamo dire ai nostri ascoltatori di scriverci via SMS al 349-238-6666 un modo diverso per chiamare primi para attempata? Potrebbe essere partire proprio da qui, no? Perché... Fra l'altro le cose si sono anche aggravate, infatti noi occupandoci delle gravidanze dopo i 35 anni e di fenomeni come l'ovodonazione, perché le mamme verso i 50 anni sono tante quelle che vanno all'estero per aggirare la legge 40 e quindi tornano. La situazione da un punto di vista psicologico, infatti nell'articolo, oltre a spiegare che cos'è la FIVET, l'ovodonazione, come avvengono queste cose, che cosa significa avere un bambino dopo i 35, 40, 50 anni, ci siamo molto concentrati sulle cose che ci diceva Pulsatilla, cioè la parte psicologica, il fatto di avere un io lo chiamo fra virgolette l'alieno in casa, perché tu sai che io ne ho tre, l'ultima a 16 mesi, quindi sto rivivendo, anzi aggiungerei al mantra una cosa: per fortuna poi si dimentica tutto, perché e si ricordano solo le cose belle. Ecco, io non vorrei invece, abbiamo prima dei mercati solo un paio di minuti, ma io conto sulla sintesi della professoressa Graziottin, perché indipendentemente dall'età, e forse anche io vorrei che lei ricordasse, professoressa Graziottin, quanto sia importante prepararsi bene ad una gravidanza. Spesso arriva anche per caso, quindi bisogna essere pronte. Professoressa Graziottin. Volentieri. Innanzitutto, ancora il 48% dei bambini nasce non desiderato, non pensato, in termini proprio franchi, per caso. Questo è drammatico nel 2010. Noi dobbiamo sapere innanzitutto che dobbiamo fare degli esami del sangue molto semplici, sia lui che lei, perché potremmo essere portatori di malattie che ci danno pochi o niente sintomi prima, ma diventano drammatici in gravidanza. Per esempio mi riferisco al citomegalovirus, mi riferisco alla rosolia, che purtroppo non sempre abbiamo preso prima e quindi non siamo pronti poi per attaccare eventuali germi, virus che ci arrivino, ma anche la toxoplasmosi, che a noi non dà praticamente quasi sintomi e al bambino può dare delle lesioni cerebrali gravissime. Quindi fate questi esami. Poi importantissimo, mamme, future mammine in ascolto, assumere acido folico per almeno 3 mesi, che è la vitamina B9 per capirci, 3 mesi prima della gravidanza. Pensate, è l'unico caso in cui con questa vitamina si può ridurre il rischio di malformazioni del cervello, della colonna del bambino, dell'83%. In altre parole, non farlo è veramente gravissimo. Prendere anche del magnesio, perché questo riduce il rischio di aborti spontanei, ma soprattutto poi durante la gravidanza avremo una serie di integratori che ci aiuteranno a, diciamo, far sbocciare al meglio questo bambino. Ma cosa importantissima, essere di peso normale. Se siete sovrappeso o addirittura obese, ragazze, mettetevi a dieta prima, perché partire col peso giusto o il più vicino possibile al peso giusto fa sì che il metabolismo sia sintonizzato in maniera perfetta e non rischiamo, o riduciamo comunque il rischio di diabete gestazionale, di un bambino che diventa troppo grosso, di ipertensione, cioè di tutte quelle malattie che possono comparire durante la gravidanza, che poi diventano un problema per la mamma e per il bimbo. Quindi normo peso, una preparazione prima, mettiamoci in forma perché il bambino sia accolto in un grembo pronto davvero per dirgli benvenuto. Accogliente. E noi adesso diamo la linea ai mercati e al meteo. Arrivano già i messaggi. Come possiamo definire in altro modo le prime parattempate? 349-238-6666. Un viaggio attraverso nei 9 mesi, attraverso i 5 sensi. Con la professoressa Graziottin e Alessandro Pellizzari, a tra poco. Gravidanza, prepararsi ad affrontarla e viverla pienamente per il benessere della mamma e di quello del suo bambino, che abbiamo visto sono in continuo contatto. Adesso andiamo un po' ad esplorare i cambiamenti che segnano questi 9 mesi e lo facciamo, come vi ho anticipato, tenendo un po' come filo conduttore i 5 sensi, e inizierei dall'olfatto. Alessandro, tu avendo 3 figli ti sarai accorto che magari tua moglie nelle prime settimane, nei primi mesi di gravidanza aveva un naso diverso. Assolutamente, e fra l'altro è una cosa che deve coinvolgere anche i papà, perché per esempio a me è stato chiesto di cambiare il dopo barba perché le dava fastidio, quindi voglio dire è una cosa veramente di coppia. Ci sono delle cose che danno fastidio tantissimo, per esempio ci sono delle mamme fumatrici che giustamente, e ci mancherebbe, smettono di fumare in gravidanza, ma hanno il compagno che fuma. Ecco, il fumatore, per esempio, ha un olfatto che non percepisce più il fastidio, che diventa intollerabile, oltre che dannoso per la mamma e per il bimbo che deve arrivare. E quindi pregherei i papà di fare attenzione a questo e alla loro mancanza di presa di coscienza, che in quella stanza, per esempio, è rimasta una traccia. Quindi non cambiate solo stanza, andate proprio sul balcone a fumare. Fuori! Esatto. Professoressa magari... Graziottin, come mai siamo così sensibili agli odori nelle prime settimane e a volte anche nei primi mesi di gravidanza? Cosa succede? Guardi, è una cosa interessantissima, una chicca biologica interessante. Noi parliamo di iperosmia gravidica, cioè vuol dire un'accentuazione della sensibilità agli odori. Sì. Il punto è che questa è proprio biologica, fisica, e alla base di questa sensibilità c'è un aumento proprio di numero delle cellule olfattorie, che sono delle cellule nervose specializzate proprio per captare i segnali chimici dell'olfatto. Infatti lei pensi che la mucosa nasale è la stazione, praticamente il nervo olfattorio è la stazione più periferica del sistema nervoso centrale. Noi pensiamo di avere un naso piccolo, ma se noi distendessimo in piano la mucosa olfattoria, che è distribuita in tantissime pieghette come un plissé, pensi che occuperebbe 1,5 metri di larghezza. Bene, il numero di questi recettori, di queste antenne che captano gli odori, è aumentato in gravidanza per effetto della prolattina, che è l'ormone che noi sappiamo, come dice il termine, serve a preparare il seno per l'allattamento. Ma oltre a fare quello, la prolattina aumenta proprio il numero di cellule nervose nel cervello e nell'apparato olfattorio. Sì. E questo ci spiega anche perché le donne diventano quelle creative, ancora più creative in gravidanza. Ma la ragione, sa qual è? È interessantissima. Aumenta praticamente le antenne perché la mamma sia più capace di riconoscere immediatamente l'odore del bambino, perché il primo segnale di attaccamento, la prima modalità di attaccamento è olfattiva. Noi amiamo le persone quando ci piace il loro odore, e la mamma riconosce il suo bambino tra mille dall'odore. Interessante, il neonato riconosce la propria mamma per i primi 3 mesi non dai sorrisi che gli fa, non dagli sguardi, la riconosce dall'odore. Per questo è essenziale che mamma e bambino siano fisicamente vicini nei primi mesi. Io possibilmente raccomando alle mamme di tenersi i bambini su col marsupio se devono lavorare, purtroppo riprendere il lavoro presto, 6 mesi secondo me è troppo presto, ma quando tornano a casa tenerselo sempre a pelle sul marsupio, tenerlo in camera anche nel lettone, che io sono da questo punto assolutamente di vista diverso dai pediatri. Sì. Perché quando noi abbiamo l'odore della persona amata vicina ci calmiamo. L'odore di mamma per il bambino è un migliore ansiolitico, e per la mamma l'odore del proprio bimbo è, come dire, il segnale più profondo di attaccamento e di valore come mamma, e questo è mediato proprio dall'aumento numerico delle cellule nervose grazie alla prolattina. Una cosa di magnifica. Profumo di mamma, profumo di bebè. Io farei un salto per parlare di vista. Le mamme si accorgono che il loro corpo cambia. Sono contenta di vedervi perché vi volevo fare notare un miglioramento del mio profilo. Non so se notate che finalmente c'è qualche cosa che supera il naso. Aspetto un bambino. Evidente, non è panettone. Poi qua a Milano naturalmente sono tutti super preoccupati. Ti devi mantenere in forma, devi mettere creme e oli speciali, fare ginnastica, non ingrassare, mi raccomando. Poi le amiche che per anni mi hanno detto: fai un figlio, è un'esperienza meravigliosa, magica, veramente straordinaria. Adesso sei incinta e come stai? Bene. Vedrai fra 15 giorni. Ma io veramente mi sento più forte, c'ho pure più capelli. Sì, anch'io avevo più capelli. Dopo il parto ti cadono tutti. Io quando sento Teresa Mannino, che ho avuto il piacere anche di conoscere personalmente, proprio mi torna il buon umore. E professoressa Graziottin, Teresa ci fa sorridere, no? E mette insieme una serie di anche luoghi comuni, sentito dire, esperienze vissute da tutti noi, no? Sono anche tanti proverbi. Il corpo della donna cambia, per alcune questa è veramente una sensazione piacevole. piacevolissime. Altre donne invece, proprio perché magari aumentano qualche chilo, si vedono un po' diverso, si preoccupano. Professoressa Graziottin, parliamo di vista, della mamma che guarda il suo corpo cambiare, lo vede anche negli occhi del suo compagno tante volte. Professoressa. Guardi, una cosa importantissima è che questo cambiamento del corpo corrisponda a quello che succede nel pancione e non a un aumento sconsiderato. Le donne devono proprio seguire dei buoni consigli. Per esempio, il principale è questo: come distribuire i pasti. Purtroppo spesso noi medici non lo diciamo e la mamma mangia normalmente, cioè per esempio i primi a pranzo. No, errore. Il pranzo, diciamo, la giornata ideale dal punto di vista alimentare per far sì che il bimbo cresca bene e la mamma aumenti dei suoi 10, massimo 12 kg è questo. Nel primo trimestre noi dovremo aumentare di un chilo al mese, il secondo 1,2 kg al mese, il terzo 1,5 kg al mese. Come si fa? Mattino colazione, quello che la donna ama, può essere il latte, può essere i cereali, eccetera. Alle 11 il ferro con la spremuta di agrumi e l'acido folico naturalmente. A pranzo, qua attenzione, le proteine, cioè il pesce, la carne e le verdure, naturalmente ben cotte se siamo negativi alla toxoplasmosi, pomeriggio magari un frutto, i primi alla sera, quindi pasta o riso, cereali o legumi alla sera. Perché? Perché c'è una produzione di un ormone importante da parte della placenta, si chiama ormone lattogeno placentare, che ha la funzione dell'insulina. E che cosa fa? Se noi abbiamo gli amidi alla sera, la glicemia resta più alta, ma non di tanto, ma prolungatamente nelle ore notturne, e siccome il bambino si nutre per gradiente, cioè per differenza tra il livello di glicemia della mamma, quindi di zuccheri nel sangue, e il suo, ecco che durante le ore notturne, quando la mamma digiuna, il bambino viene nutrito con la giusta quantità di zuccheri. Quindi la mamma aumenta di peso nella maniera corretta e il bambino arriverà a termine di 3,2-3,3 kg, che è il peso perfetto per un parto vaginale ideale e con un bambino sano. Altro dato: il bambino che nasce grosso, ti dico, un bambino, un bambinone, e mezzo. Attenzione, è un fattore predittivo di rischio poi per diventare obesi e ipertesi in età adulta. Quindi il giusto peso per la mamma non è vanità, è salute del bambino. Alessandro, volevo tornare un attimo al discorso di sono ancora bella, no? A quella fascia di mamme che non si vedono così perfette, così bellissime col pancione. Sono ancora bella è una domanda che viene fatta al partner, e che il partner, giustamente dicevi tu, guarda con occhi diversi. Ci sono dei partner, per esempio, che smettono di fare sesso perché vedono la maternità come qualcosa di sacro, intoccabile, inviolabile, bello però, diciamo, da tenere a distanza. Ecco, professoressa Graziottin, un consiglio ai papà e ai compagni in questa fase delicata, perché è una fase psicologica particolarmente delicata per questo tipo. È vero, Alessandro, buongiorno, ci sentiamo sempre molto volentieri. Naturalmente dipende molto da come è nato questo bambino. In altre parole, è nato desiderato, questa coppia si ama, aveva un progetto di famiglia e quindi ha concepito questo bimbo prima dei propri sogni di coppia, parlando e sognando, come succede nelle coppie che si amano e che scelgono di avere un figlio, quindi lo pensano prima, il bambino dei sogni, come potremmo dire. In quel caso l'atteggiamento dell'uomo può diventare molto protettivo, perfino troppo, o addirittura nel momento in cui vede la moglie come la compagna, come mamma, come dicevi giustamente, il desiderio tace. Noi dobbiamo dire con grande chiarezza che se non abbiamo una minaccia d'aborto o di parto prematuro o altre patologie molto specifiche, in tutte le altre situazioni la coppia può far l'amore tranquillamente, teneramente, fino quasi a termine, ovviamente scegliendo magari le posizioni che disturbano meno il pancione. Darei la linea, mi scusi professoressa Graziottini, ad Alessandro che ci chiama da Vicenza all'800 24 00 24. Alessandro, parlando di papà, ho scelto lei tra gli ascoltatori. Buongiorno. Lei è papà e mi sembra dalla voce anche giovane. Sì, ho 20 anni, sono diventato papà che stavo per compierli, quindi a 19 anni. Ma complimenti. Dai, complimenti! grazie. E quanti anni ha la mamma? La mamma ha 24 anni, è diventata mamma 23. E quindi insomma siete... Età perfetta dal punto di vista biologico. Esatto, infatti io volevo dire, siete proprio la coppia che ha descritto la professoressa Graziottin. E come ve la cavate? Sì, la ringrazio, comunque infatti non ho avuto alcun problema né in gravidanza né adesso, ho le energie per svegliarmi, diciamo, la notte, aiutarla, nonostante riesca, diciamo, sia a lavorare che a continuare negli studi. Certo che c'è da dire che senza comunque l'aiuto della famiglia, sì, certo. Sarebbe molto difficile, ecco, ci sono poche possibilità per dei giovani. Lei si è laureata, che era incinta, io adesso sto finendo, tra 3 anni avrò finito di laurearmi, comunque senza l'aiuto della famiglia, lo Stato o in generale la comunità. È difficile perché sono una mosca bianca, diciamo. Certo, poi un papà giovanissimo proprio, Alessandro, tu... è molto... volevo dire che sì, è stata una scelta per me eccezionale, mi ha dato una spinta e una carica alla vita e mi dà indietro molto di più di quanto io possa dare, diciamo, di energie. Ecco, è una cosa che consiglio, è che nella possibilità comunque di avere un rapporto come ho costruito io negli anni con la mia compagna, paga assolutamente. Alessandro, ma lei ci ha fatto un po' innamorare, è veramente una dichiarazione d'amore. Io devo dare però la linea alla viabilità. Alessandro, un abbraccio. Grazie. Grazie 800240024, a tra poco. E siamo di nuovo qui, vi leggo alcuni degli sms che ci avete mandato al 349-238-6666 per trovare insieme una nuova definizione che sostituisca quella che non ci piace: primipara attempata, mamme attempatelle, primipara matura, mamma tardiva come una vendemmia speciale, mamma dopo, c'è anche un altro, mammifera stempiata, ci scrive Federico da Roma. Alessandro ride, ma non mi piace. Ma io vorrei tornare alla vista, perché la mamma si guarda, il papà guarda la mamma, ma non vediamo solo la pancia che cresce, possiamo vedere anche il nostro bambino. Ecco la colonna, questa qui. Non è credibile? Oh, il cuore che batte. Lo vede? Credo di sì. Ok. Vuole sapere il sesso, posso dirglielo ora se vuole. D'accordo. È un maschio! È un maschietto! Che effetto fa? Ah, fantastico! Un maschietto maschio! Un maschietto maschio, vedi che vengono fuori. Professoressa Graziottini, il bambino è lì da vedere. Quante ecografie, quali? Ce ne sono sempre di più sofisticate. Insomma, quali sono le tappe importanti? Beh, certamente il primo trimestre, innanzitutto per vedere se la gravidanza stia procedendo bene, se sia annidata in utero, perché a volte possiamo avere un'extrauterina che ci porrebbe dei problemi molto anche di rischio per la mamma, se abbiamo poi un'emorragia intra-addominale da rottura appunto di una gravidanza tubare, rottura della tuba intendo. Naturalmente vedere se uno o più, perché anche sapere se una gravidanza gemellare ci pone a una serie di attenzioni e anche se vogliamo di rischi. Quindi insomma vedere com'è parte la gravidanza, questo è sicuramente importante. E per le donne che non avessero per esempio chiara la data dell'ultima mestruazione o che avessero avuto delle perdite irregolari dopo, determinare l'età gestazionale, quindi sapere esattamente a che punto siamo della storia. Poi naturalmente nel secondo trimestre avremo un dato ulteriore. Adesso poi noi abbiamo delle ecografie, per esempio la 10ª settimana si vanno a ricercare dei marker particolari, per esempio per vedere se non ci siano dei segni che suggeriscono un rischio maggiore di malattia di Down, ossia di anomalia cromosomica. Andiamo a vedere se non ci siano anche delle alterazioni, e questo può comportare però dei problemi. In che senso? Che a volte l'ecografista può vedere, nel corso in particolare di quella del secondo trimestre, i cosiddetti soft markers. Cosa vuol dire? Delle piccole anomalie, delle piccole alterazioni rispetto a quella che è l'immagine perfetta del bambino che andiamo a valutare. Ecco che il soft marker pone degli enormi quesiti alla mamma, anche se il medico per esempio sta valutando, e naturalmente è normale che noi, e infatti noi dovremmo essere più consapevoli anche dell'aspetto delle nostre espressioni mentre muoviamo la sonda sul pancione, perché nel momento in cui la mamma vede il medico che si concentra, che tace, che muove la sonda sempre sullo stesso posto, che magari è una mimica preoccupata, lei si preoccupa da morire. Allora, delle ricerche che abbiamo fatto sull'attaccamento madre-bambino, pensi che nel momento in cui l'ecografia ci dà un dubbio, e la mamma inconsciamente, è chiaro, non è un processo consapevole, sì, ma si ferma o si riduce significativamente il processo di attaccamento tra mamma e bambino, come se diventasse come gravidanze sospese finché negli esami successivi tutto non si dimostra che era un falso allarme e che in realtà va tutto bene. Se invece il problemino c'è o il problemone c'è, ecco che allora il vedere prima ci crea da un lato lato il problema di scelte anche dolorose o drammatiche, e dall'altro comunque una serie di quesiti che vanno a turbare quel processo di attaccamento che vediamo comunque andare più liscio, più tranquillo nelle donne che rifiutano per esempio poi di fare la villocentesi o di altri accertamenti, anche se poi si espongono magari a amarissime sorprese dopo. Quindi il vedere come tutti i sensi, come tutti gli aspetti della vita, ha sempre un lato luminoso e un lato oscuro che dobbiamo sapere accompagnare e guidare perché non diventi drammatico. Andrea Bologna, ci aspetta Cinzia. Buongiorno Cinzia, benvenuta. Buongiorno. Io sono una primipara attempata. Sì, come vorrebbe definirsi lei? Primipara attempata o ha scelto un'altra definizione? No, guardi, non ha importanza. Io sono così contenta della mia bimba e dell'esperienza che ho avuto che purtroppo la biologia dice che l'età giusta sarebbe prima. Cinzia, quanti anni ha? Io ora 42, ma ho partorito che avevo 40 anni. Perfetto. Un ascoltatore mi suggerisce mamma barricata, da barricca. Però ecco, questi mi piacciono fantasiosi. Perché... Quindi Cinzia, un'esperienza magnifica, da primipara attempata, mamma barricata, insomma gli ascoltatori si sono davvero così scatenati in definizione, di questo li ringraziamo. Io vorrei però anche parlare di un senso che naturalmente non vogliamo dimenticare, che è l'udito, i suoni, la parola della mamma sono molto importanti. Sul nostro sito poi troverete proprio un approfondimento sulle musiche da ascoltare, quelle consigliate a seconda dei vari trimestri, e ne parliamo. Mia madre, mi raccomando, adesso devi mangiare per due. Non sono alimenti per una donna incinta. Lui mangia quello che mangi tu e quello che ascolti tu. Comunque lo ascolta anche lui. Se ascolti DMX, il bambino esce fuori. Professoressa Graziottin, il bambino sente i rumori, sente il battito del cuore della mamma, sente anche le parole della mamma e dico anche dei papà, le filastrocche, i canti. È importante scegliere anche una musica, direi proprio come suono, ma anche avere un ritmo, no, che culla il bambino. Quali sono? Abbiamo proprio, io vorrei chiudere con la musica, abbiamo proprio un minutino per dare delle indicazioni, sottolineare questo che ormai tutte le mamme sanno e che viene naturale per una mamma quando si accarezza il pancione, fatelo con delicatezza, cantare o parlare al bambino. Professoressa. Allora, innanzitutto l'udito è maturo intorno al settimo mese, cioè non è che il bambino senta dal terzo, ecco, tanto certo. Per essere precisi, c'è una maturazione dell'apparato acustico. Comunque, importantissimo innanzitutto sono le atmosfere acustiche della casa, in altre parole i toni con cui ci si parla, con cui si dialoga, perché il bambino sente non solo i toni di voce, ma anche quello che comportano come ripercussione dal punto di vista dell'adrenalina, della vasocostrizione, del battito cardiaco della mamma se per esempio le si parla in maniera aggressiva. Quindi non è che il bambino sente solo il suono aggressivo, chiaramente le parole non riconosce, segnaterà i toni emotivi, ma sente l'impatto che quel tono emotivo ha sulla mamma. Di converso, quando si parla alla mamma o la mamma a se stessa o parla al bambino, a volte si parla anche a voce alta o canticchia tra sé e sé, il bambino sente quella voce, quella musica di fondo, quel feeling tone, quel tono emotivo, ma sente anche le vibrazioni di gioia e le molecole della gioia aumentano nel corpo della mamma quando è felice. Quando una donna canta o quando un uomo canta, sappiamo che il suo sistema è sotto il comandante dei tempi di pace, il parasimpatico. In altre parole, stiamo bene. Ecco che allora il canticchiare in gravidanza è un cullare il bambino già prima che nasca. Mamma, il bambino quindi... pare che riconosca anche dopo quei motivi, questo è molto interessante. Sì, c'era una ricerca molto interessante, esatto, anche del San Raffaele di cui abbiamo parlato. Mamme, canticchiate, ma potete anche effettuare dei controlli. C'è una bella iniziativa di Star Bene che, se Alessandro ce la racconta in 30 secondi, possiamo darla. Sì, questo mese parte il mese della prevenzione di Star Bene, si possono prenotare delle visite, più di 1000 visite, consulenze che noi mettiamo a disposizione su 24 specialità. Ecco, quindi siamo ritornate all'indicazione della professoressa Graziottin: prepararsi ad una gravidanza vuol dire anche... C'è, no? Anche la ginecologia, quindi... Prepararsi per bene. Io vi saluto, ringrazio con un abbraccio la professoressa Graziottin, Alessandro Pellissari me lo abbraccio dopo, un saluto a voi, grazie per essere intervenuti e averci seguito, a domani. Essere e benessere.